Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e 9 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. Allora, i temi di qui, la prima puntata della settimana, visto che ieri c'era lo speciale dedicato appunto alle elezioni amministrative, non ci occuperemo chiaramente in senso diretto delle elezioni amministrative, però il tema che si pone, e si poneva anche prima di queste elezioni, ma non ne potevamo parlare, c'era la par condicio e c'era comunque anche un vincolo sull'influenza che si può dare agli elettori, ma dicevo, il tema che si pone è il ruolo del merito all'interno della gestione delle metropoli. Pensate che una ricerca recente di McKinsey sottolinea come il 60% del PIL nei paesi occidentali venga sviluppato proprio nelle metropoli. Chiaro che il riferimento è a Milano, ma va anche a Napoli, a Torino e a Bologna. L'urbanizzazione dell'economia si chiama in gergo, pur in un paese dal capitalismo diffuso, dal capitalismo di territorio, come dicono gli studiosi. E siccome da più parti abbiamo letto che quello che è mancato in questa campagna elettorale, soprattutto a Milano ma non solo, sono stati i temi dell'amministrazione della metropoli, i temi sono stati troppo politici, secondo alcuni osservatori, troppo nazionali, troppo slegati da quello che deve fare poi il sindaco quando se verrà eletto. Beh, di questo vorremmo ragionare con chi si occupa di merito da anni. Lo faremo nella seconda ora del programma. In apertura invece le notizie che riguardano l'Europa, vertice Eurogruppo, vertice Ecofin, il Portogallo e la Grecia sotto i riflettori, ma anche la partita su Mario Draghi. Perché? Perché da un lato adesso la Germania e la Francia temono che vi sia una banca centrale europea troppo sbilanciata verso il Mediterraneo, e quindi sia Mario Draghi come presidente, ormai insomma la cosa lo raccontiamo a 2 settimane almeno, è certa, però un po' di mal di pancia del centro Europa. E poi la richiesta francese è arrivata ieri sera in maniera un po' brusca, devo dire, dal ministro Christine Lagarde, e poi oggi corretta come tiro, ma insomma lasciate il posto a un francese nel board, nel consiglio della Banca Centrale Europea, visto che voi avrete già il presidente della Banca Centrale Europea come italiano, Mario Draghi. Quindi Binismaghi, Lorenzo Binismaghi, consigliere italiano della Banca Centrale Europea, lascia il posto a un francese. Immagino che non sarà Strauss-Kahn, e immagino che questo nervosismo della Lagardère rifletta anche l'imbarazzo francese per quello che è successo al numero 1 del Fondo Monetario Internazionale, di cui non ci occupiamo, per carità di patria. 349-238-6666 per i vostri sms. Parleremo anche di altri temi che riguardano i giovani. In realtà oggi un bel rapporto sui giovani agricoltori ce ne sono. Può sembrare strano, ma non tutti vogliono lavorare in finanza o fare giornalisti, meno male. Da un lato, dall'altro anche il rapporto, l'incontro tra grandi gruppi, grandi aziende italiane e i giovani che cercano lavoro. Di questo si è occupato oggi il nostro Sergio Nava. Poi, come sempre, le borse che sono negative in tutta Europa. Milano non fa eccezione, meno 1,30% Milano, meno 1,20% Parigi, meno 1,70% Francoforte, Londra in realtà perde 0,5 punto percentuale, l'America perde l'1%, l'euro è debole relativamente, nel senso siamo sempre sopra quota 1,40, ma 1,41,48. E tra i titoli segnaliamo oggi la flessione di Azimut, meno 3,5%, e Steam Microelectronics, meno 3,20%, in pregiro meno 3% come Tods e Tenaris, il 2,60% lo perde Campari e Fiat, il 2,5% il calo di Fiat Industrial e Finmeccanica, il 2,2% quello di Intesa San Paolo e di Prismia, nel 2% il calo di Exor, l'1,90% lo perde Autogrill, l'1,70% Fondiera Sai e anche Buzzi Unicem. E poi meno 1,6% per Telecom Italia, l'1% è il calo di Eni e di Luxottica e anche di Lottomatica. Chi guadagna? Beh, solo il Banco Popolare, più 0,60%, e Atlantia, lo 0,30%. Subito le notizie in breve. 349-238-6666 è il numero per i vostri sms. Partiamo come sempre dagli altri mercati, ossia petrolio e oro. Il petrolio è sotto i $100 il barile, a $96,45 New York, e la quotazione è comunque in calo dell'1%. Oggi l'oro invece torna a crescere, ma sempre sotto i $1,500 l'oncia, $1,494. Dall'America un dato sulla produzione industriale ad aprile è invariata, peggio delle attese del settore auto negli Stati Uniti, e cala il numero di nuove case, meno 10% in aprile sotto le stime. Poi parleremo di Europa, del vertice Eurogruppo e Ecofin, ma insomma il presidente dell'Eurogruppo Jean-Claude Juncker, che ha solidarizzato con il collega, professionalmente parlando ci mancherebbe, Dominique Strauss-Kahn, ha detto la ristrutturazione della Grecia, una ristrutturazione soft, morbida, è possibile. Intanto sono arrivati i primi aiuti al Portogallo, il tasso che pagherà il Portogallo sarà del 5,1% in media, questo per gli aiuti che riceverà dal Fondo Monetario Internazionale e dall'Unione Europea. E ancora, il piano era stato annunciato ieri, oggi si è saputo quanto sarà il tasso di interesse che pagherà il Portogallo. E in Spagna invece c'è una buona notizia, perché i rendimenti delle obbligazioni spagnole sono calati del praticamente ha piazzato oggi la Spagna 4 miliardi e 200 milioni di bot a 12 mesi. Ha offerto un interesse al 2,5% contro il 2,7% dell'asta precedente. Anche quelli a 18 mesi, un altro miliardo e 200 milioni, sono calati come rendimenti al 3% contro il 3,3% precedente. Quando calano i rendimenti, lo diciamo sempre, ma insomma, quando calano i rendimenti delle obbligazioni, dei titoli di Stato, è una buona notizia per quel paese, perché più sei ritenuto sicuro, meno devi offrire come tassi di interesse. Più sei ritenuto a rischio, più devi offrire per trovare sottoscrittori del tuo debito, come se fosse un privato. Quindi in calo i rendimenti spagnoli vuol dire che in questo momento non si stanno concentrando sulla Spagna le speculazioni sulla tenuta del debito spagnolo. L'inflazione in Gran Bretagna invece accelera più del previsto, va ai massimi da 2 anni, al 4,5% la crescita dei prezzi al consumo in Gran Bretagna, il livello più alto appunto dall'ottobre del 2008. E a questo punto ci si attende che il governatore della Bank of England, Mervyn King, praticamente spieghi pubblicamente perché ha lasciato i tassi di interesse invariati. Sono i tassi in Gran Bretagna al minimo storico, lo 0,5%, e mi sembra di poter dire che la prossima mossa potrebbe essere rialzista da parte della Bank of England, quindi portare i tassi in alto, visto che l'inflazione in Gran Bretagna sta correndo. Alcuni di voi ci chiedono al 349-238-6666 perché non parliamo dei referendum del prossimo 12 giugno. Faremo una puntata apposta sull'acqua, che è quello che più interessa da vicino a questo programma, il referendum appunto sulla privatizzazione dell'acqua. Andiamo avanti invece con i dati auto. Oggi in Europa ancora in rosso ad aprile, meno 3,8% le immatricolazioni. Bene la Germania, più 2,5%, la Francia meno 11%, l'Italia meno 2,2%, la Gran Bretagna meno 7,5%, la Spagna meno 23% nelle immatricolazioni di auto rispetto a un anno fa. Il gruppo Fiat complessivamente in Europa perde il 7,8%, nel caso specifico Fiat meno 15%, Lancia meno 12%, l'Alfa Romeo, perché ha i modelli nuovi, più 61%. Bene invece la Volkswagen, più 3,7%, BMW più 5%, Opel più 1,2, Mahle Renault meno 12,6% e Ford meno 3%. La Toyota nel frattempo ha annunciato che su base mondiale riprenderà il 100% della sua produzione europea da giugno, dopo il terremoto, lo tsunami dello scorso 11 marzo. L'Italia, allora, noi la stiamo seguendo da settimane la polemica sul caro traghetti e devo dire che adesso si è mosso anche l'antitrust, che ha avviato un'istruttoria nei confronti delle società Mobiline, Snav, Grandi Navi Veloci e Foreship, che sarebbe il marchio Sardinia Ferries, e l'ha avviata anche sulle controllanti per verificare se vi sia stato il cosiddetto cartello, cioè quando i soggetti, i principali operatori di un settore si mettono d'accordo per alzare i prezzi o mantenere i prezzi alti senza quindi concorrenza, dicevo, per verificare se abbiano posto in essere un'intesa restrittiva della concorrenza finalizzata all'aumento coordinato dei prezzi per il trasporto verso la Sardegna. Allora, queste società rappresentano il 60% di tutti i passeggeri verso la Sardegna e il 75% di tutte le frequenze, di tutte le navi per la Sardegna. Secondo quello che risulta all'antitrust e risulta anche a noi, gli aumenti sono stati tra il 90 e il 110% rispetto a un anno fa. Le compagnie di navigazione si giustificano dicendo che stanno scontando il petrolio, l'aumento del prezzo del petrolio, che pesa per il 50% sulla gestione della nave. È sicuramente anche così. Faccio notare però che questi prezzi sono anche più alti rispetto al 2008, quando il petrolio viaggiava intorno ai 140 e 130. Allora come la mettiamo? Attendiamo speranzosi che qualcuno dei responsabili di Mobi, Snav, Grandi Navi Veloci ci conceda un'intervista. Su questo devo dire che la Regione Sardegna è pronta a chiedere i danni, l'ho detto il governatore Ugo Cappellacci. Praticamente ha detto Cappellacci, si auspica che l'istruttoria dell'antitrust si concluda in tempi rapidi. Su questo io vi ricordo che Cappellacci nel programma di una settimana fa, facciamolo sentire, 9 in punto con Oscar Giannino, aveva ricordato il perché la Regione Sardegna si fosse messa a offrire lei stessa un servizio nei confronti per i passeggeri, le quattro navi messe a disposizione. Sentiamo Cappellacci. Noi riteniamo che si siano violate le regole del libero mercato e l'intervento della regione non è un intervento che vuole ripristinare il cosiddetto servizio pubblico onerato o che in qualche modo altera i meccanismi del mercato, perché noi abbiamo deciso di partire intanto in via sperimentale, questo è importante dirlo, lo facciamo attraverso la nostra controllata che è la società Saremar, che sino ad oggi si è occupata dei collegamenti da e per la Sardegna e le isole minori e che però a norma e statuto può svolgere anche collegamenti con la penisola. Noi lo facciamo con un meccanismo che intanto si basa su un principio contabilità separata per dimostrare la sostenibilità dell'iniziativa. Riteniamo cioè che l'iniziativa si regga sulla base delle regole del mercato, con l'incontro tra domanda e offerta, e che sia possibile chiudere con equilibrio di bilancio. Abbiamo dato mandato alla Saremar perché avviasse tutte le procedure per coprire due almeno fra tre tratte che abbiamo indicato, che sono le tratte che collegano la Sardegna nord-orientale con l'Italia centro-meridionale e la Sardegna nord-orientale con l'Italia centro-settentrionale, oltre che Sardegna nord-occidentale con l'Italia settentrionale. La Saremar interviene sul mercato attraverso il nolo cosiddetto armato delle navi, che vengono reperite attraverso l'utilizzo di broker specializzati, e cerca di intervenire ripristinando quelle regole, o meglio quelle condizioni che vigevano sino all'anno scorso, a due anni fa, e che erano condizioni che noi riteniamo siano assolutamente sostenibili. Questa iniziativa da un lato tenta di trovare una soluzione, dall'altro mi rendo conto ha un po' rallentato il processo e le prenotazioni. Posso dire che dal 15 di maggio, quindi tra 5 giorni esatti, sul sito della Saremar sarà possibile effettuare le prenotazioni per questo nuovo tipo di offerta. così una settimana fa il presidente della regione Sardegna Cappellacci. Staremo a vedere, anche perché alcuni dicono: attenzione, questo stranamente avviene nell'anno in cui non c'è la concorrenza di Tirrenia, concorrenza sicuramente non efficiente, visto che la società ha sempre perso. Abbiamo spesso criticato la sua gestione, la gestione dell'allora RAS Pegorini, però insomma non è che quando va via il pubblico improvvisamente salgono i prezzi del privato, Va benissimo il petrolio, siamo in attesa di poter ascoltare quando volessero le obiezioni degli armatori. Ripeto, attenzione a giocare col prezzo del petrolio, perché sennò mi dovete spiegare perché questi prezzi sono più alti rispetto al 2008, quando il barile viaggiava a 140 dollari, appunto, 140, 130, 105, 148. Ancora due notizie. Una è l'incontro tra la presidente Confindustria Marcegaglia a Torino con i parenti delle vittime del rogo della Thyssen, dopo le polemiche per quell'applauso a Bergamo, secondo alcuni mal interpretato, secondo molti altri fuori luogo. Diciamo che se non ci fosse stato sarebbe stato meglio. E chiudiamola lì. L'incontro è terminato circa mezz'ora fa e la presidente Confindustria Marcegaglia, secondo quanto riferito le stesse familiari delle vittime, hanno detto che si è impegnata a proporre al Presidente della Repubblica l'istituzione di un premio sulla sicurezza dedicato alla memoria degli operai morti a Torino nel rogo dello stabilimento della Thyssen. E poi la vicenda dell'IKEA. Io dico sempre, sono qua, temiamo la colonizzazione dei francesi, la colonizzazione degli stranieri, ma il problema è vero che gli stranieri in Italia non vengono. Allora, questa è una vicenda che trovate oggi sui giornali, ma che è dell'incredibile. L'IKEA ha annullato sia l'apertura sia l'investimento, soprattutto, del nuovo punto vendita a Vecchiano in provincia di Pisa. Avrebbe generato 350 posti di lavoro, garantito investimenti per 70 milioni di euro. Il motivo? 6 anni di attesa, se vi sembrano pochi. Eh sì, dopo 6 anni gli svedesi si sono arresi e stiamo parlando di Pisa. Complimenti all'amministrazione comunale, che si è difesa sostenendo che era necessario realizzare opere stradali per decongestionare il traffico e che avrebbe comportato per la nascita del magazzino. Stiamo cercando il sindaco di Vecchiano e se lo avremo in diretta chiederemo anche lui spiegazioni. Nel frattempo parliamo di Mario Draghi. Mario Draghi ormai stabilmente visto come l'unico, anzi è l'unico candidato alla presidenza della Banca Centrale Europea. Professor Francesco Caselli, economista, insegna alla London School of Economics, neo editorialista del Sole 24 Ore, in collegamento con noi appunto da Londra. Buonasera professore. Buonasera. Le chiedo di alzare leggermente la voce, che la sentiamo un po' basso. Buonasera, va ecco, bene così? Sì, perfetto. Allora, oggi il vertice Ecofin ha accettato la designazione di Draghi alla presidenza della Banca Centrale Europea. Questo è l'iter che bisogna fare. Tremonti ha detto quello che è stato deciso ieri, lo sapete. E però iniziano i primi distinguo. La Christine Lagarde, che è ministra dell'economia francese, ha detto di nuovo, dopo averlo detto ieri, insomma, elegantemente, il consigliere italiano Lorenzo Binismaghi lasci il posto a un francese. Binismaghi ha fatto notare che il suo mandato scade nel 2013. Iniziano i primi mal di pancia, secondo lei? Beh, è inevitabile. Direi la prima considerazione da fare, che secondo me comunque rimane molto importante, è che la nomina di Draghi, la designazione di Draghi, è forse il caso in cui più di tutti finora ha prevalso il merito sulle considerazioni di spartizione fra paesi delle varie cariche a livello di Unione Europea, di Unione Monetaria, eccetera, per cui è comunque un evento importante. Rimane il fatto ovviamente che l'Unione Europea è un coacervo di interessi nazionali e per cui anche una volta fatto il bel gesto di nominare Draghi, che comunque è una cosa molto importante, riemergono subito le esigenze dei vari paesi di preservare la loro posizione, le loro quote, fra virgolette, nei vari consigli delle varie istituzioni europee. però io direi che questo è fisiologico al modo in cui funziona l'Europa e non dovrebbe detrarre troppo dalla soddisfazione per aver visto almeno un caso in cui una carica importantissima è stata data al miglior candidato e non a quello del paese a cui toccava. Sì, su questo lei ha assolutamente ragione. Ricordo, per memoria storica, che quando fu nominato Duisenberg presidente della Banca Centrale Europea vi fu una staffetta, cioè si disse sta per 2 anni o 3, adesso vado a memoria, il tedesco, l'olandese, è infatti olandese, e poi arriva il francese che era Trichet. Fu una decisione molto politica, cioè franco-tedesca. In questo caso lei dice si è scelta la competenza e devo dire che sono assolutamente d'accordo. Tra l'altro la stessa Christine Lagarde che chiede a Lorenzo Benismaghi di farsi da parte, sebbene il suo mandato scada nel 2013, non si capisce perché dovrebbe fare una cosa del genere. Cioè, immaginate, se il presidente fosse stato francese non avremmo dovuto chiedere a consiglieri belgi o francesi di farsi da parte. Comunque è il candidato più forte nella successione a Dominique Strauss-Kahn, una donna quindi al posto di Dominique Strauss-Kahn, per cui attenzione che poi la Francia gioca come sempre su diversi tavoli. Visto che mi chiedete chi potrebbe essere a prendere il posto di Dominique Strauss-Kahn, la Lagarde è la più forte, poi c'è anche un economista turco che si chiama Stagnames e poi Sridhar che è il presidente della Central Bank of India e poi anche Stanley Fischer, il governatore della Banca di Israele. Questo secondo i bookmakers e quindi gli scommettitori. Di nuovo mi consente una battuta, come no? Benismaghi dovrebbe dire alla Lagarde di dargli il fondo. È vero. No, ma io capisco che i francesi siano un po' irritati perché perdono Trichet e perdono Strauss-Kahn. Quindi un po' di irritazione ci possa essere, eh? Non è che la grandeur poi ti porta anche a qualche frustrazione nella vita. Sono d'accordo, Benismaghi dovrebbe dire va bene, vado io al fondo e tu vieni a fare consigliere alla Banca Centrale Europea. Tornando invece all'obiettivo principale, e cioè il mal di pancia che si registra in Europa, come mai oggi anche l'Olanda secondo lei chiede che lasci il posto del consigliere italiano? Cioè si torna perché fino adesso Draghi veniva descritto come super partes, cioè Sarkozy, ce l'abbiamo Sarkozy, lo facciamo riascoltare quando incontrò Berlusconi in quel famoso 4-0 per la Francia o 4-1 se vogliamo inserire Draghi, e disse noi lo appoggiamo non perché è italiano ma perché è bravo, facciamo sentire un attimo. Lo appoggiamo perché è italiano, ma lo appoggiamo perché è un uomo di qualità, ma è in più, è anche italiano. Sarà un ottimo segnale da trasmettere a tutti gli italiani che possono mettere in dubbio il ruolo e il posto che occupa l'Italia in Europa. È importante che un italiano abbia questo incarico e sono stato felice di sentire la Presidente Berlusconi che sarebbero pronti a sostenere la candidatura di un francese nell'ambito del direttorio della BCE. Hanno cambiato idea i francesi, perché adesso anche gli olandesi dicono no, deve lasciare il posto all'altro italiano. Insomma, Draghi è bravo o è italiano? Draghi è tutte e due cose. Questo è il problema. Certo. Secondo me è importante capire un po' cosa significa un banchiere centrale italiano agli occhi dell'opinione pubblica europea. E vale la pena di ricordare che quando ci fu il grande dibattito tedesco sull'opportunità o meno di rinunciare al Deutschmark e passare all'euro, e il grande slogan degli oppositori dell'euro era di dire guardate che con l'euro si rischia che gli italiani facciano i banchieri centrali europei, e questo è il livello di sospetto e di preoccupazione che un italiano alla guida della politica monetaria europea suscita. Ora, in parte questo sospetto e questa ansietà e deriva inevitabilmente dal passato di paese ad alta inflazione che l'Italia aveva prima dell'unificazione monetaria. E quasi che gli italiani abbiano una reputazione di mancanza o di mancanza di disciplina o di volontà nel gestire la politica monetaria e strettamente collegata alla finanza pubblica, no? C'è un'ansietà legata alla performance storica dell'Italia su questo fronte. Eh sì. vedo molti paragoni tra gli scandali sessuali italiani dei mesi scorsi, quelli che hanno coinvolto il Premier e il numero uno del Fondo Monetario Internazionale, i francesi che s'arrabbiano. Vabbè, devo dire che in realtà mi sembra molto molto speciosa questa polemica francese, mi sembra un po' appunto di bile, di succo gastrico che in qualche modo torna, ma non c'è altro, non si capisce perché, insomma, se Draghi andava bene fino a ieri, non si capisce perché Bini Smaghi deve lasciare il suo posto nel consiglio della Banca Centrale Europea. La Francia non l'avrebbe mai fatto, e quindi secondo me è una polemica tutta francese, un po' piccati, perché insomma in Libia le cose non sono andate come volevano, Sarkozy è in calo nei sondaggi, il leader dell'opposizione, diciamo, ha qualche problema con chi rifà la camera d'albergo, insomma, no? Qualche nervosismo si può anche immaginare. E mi dica solo una cosa e poi la ringrazio, professor Caselli. Anche lei ritiene che comunque Mario Draghi sarà tutto tranne che italiano? Voglio dire che l'unico vero vantaggio sarà che lui conosce bene le banche italiane, ma avrà un atteggiamento di estremo rigore molto più anglosassone di quanto non possa immaginarsi? Non ci si aspetti che Draghi ci faccia alcun favore, anzi al contrario, proprio per queste ansietà e preoccupazioni che una nomina di un italiano o comunque di uno che viene dall'Europa meridionale suscita, lui dovrà stare attentissimo a non dare la benché minimo sospetto di parzialità a favore dei paesi dell'Europa meridionale. E questo è molto importante, ovviamente, perché siamo in un momento in cui diversi paesi europei sono in diverse fasi del ciclo economico e avrebbero bisogno di politiche monetarie diverse. Ma Draghi deve stare attentissimo a non apparire di parte, e quindi ci si può aspettare, certo, che semmai sia ancora più antinflazionistico, ancora più un falco di quanto non sia stata storicamente la Banca Centrale Europea, che già è la più rigidamente antinflazionistica fra le grandi banche del mondo. Grazie al professor Francesco Caselli, che appunto insegna alla London School of Economics, editorialista del Sole 24 Ore. Adesso meteo, pubblicità, poi la borsa. Una nota: c'è chi scrive sull'IKEA, dunque mi dà amabilmente del testicolo, perché non vogliamo dire parolacce a quest'ora, e dice: sei appunto un perché l'IKEA per 300 posti che crea ne distrugge il quadruplo. Era praticamente insultante. Allora, se questo è il punto per non far arrivare l'IKEA a Pisa, non facciamolo arrivare da nessuna parte, cioè diciamo che non possono sbarcare qua le grandi catene di distribuzione mondiale, neanche quelle italiane, perché se il ragionamento vale per l'IKEA, vale per tutti. Mi sembra un ragionamento un po' da arrampicata sugli specchi. Comunque, meteo, pubblicità, poi la borsa, e poi vediamo se troviamo anche il sindaco o qualche esponente dell'amministrazione di Vecchiano in provincia di Pisa. 349-238-6666 per i vostri sms. ...17:42 di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Parliamo adesso di borsa, dopodiché c'è chi mi fa notare nella vicenda IKEA nella provincia di Pisa che allora, se fosse così, non bisognerebbe neanche dar spazio alle Coop, molto presenti in tutta Italia e anche e soprattutto in Emilia Romagna e in Toscana. Sono d'accordo, cioè o si è contro la grande distribuzione a tutti i livelli, Coop, Esselunga, Conad, Auchan e via così, oppure non si capisce perché l'IKEA debba aspettare 6 anni per fare un investimento da 70 milioni con 300 posti di lavoro, perché sennò rovina i posti degli altri. Allora decidiamo che non facciamo più arrivare le multinazionali in questo paese. Per carità, ogni paese può fare quello che vuole, secondo noi è una follia, però insomma la vera risposta sarebbe cercare di fare concorrenza alle multinazionali là dove loro non arrivano. Ne abbiamo parlato molte volte, sia sui mobili che sull'alimentare che su altre forme di distribuzione. C'è spazio per i piccoli, certo che se il piccolo vende gli stessi prodotti del grande, lo spazio non c'è e non c'è proprio. Poi magari facciamo anche un giorno un ragionamento sui prezzi, perché i prezzi dell'IKEA e i prezzi della grande distribuzione sono spesso concorrenziali. Comunque la borsa. Giornata negativa oggi in tutta Europa, dicevamo in apertura Milano non fa eccezione, perde l'1,30%. 8, Parigi meno 1,20, Francoforte meno 1,80, Londra meno 0,90, l'America meno 1,20%, euro su dollaro 4,1,41,38. I titoli, diciamo, di positivo c'è pochissimo: il Banco Popolare più 0,40, Atlantia più 0,20, Generali più 0,1. Negativa, Azimut meno 3,40, Tenaris meno 3,30 come ST Microelectronics, il 3% lo perde Tolz, il 2,70 Fiat è in pregiro, il 2,60 Fiat Industrial, il 2,40 Intesa, il 2,2 il calo di Campari, di Prismia, neanche di Finmeccanica, il 2% quello di Autogrill, l'1,80 quello della Popolare Milano e di Fondiaria Sai, l'1,70 lo perde Xore Mediaset. E anche Buzzi Unicem, meno 1,5 per Enel e Telecom Italia, meno 1,1 per l'Automatica Mediobanca, Unicredito Mediolanum, Luxottica ed Eni. E allora Michele, Radio Corriere sulle 24 ore, buonasera. Buonasera. Dunque, partiamo dalle banche. UBI ha recuperato qualcosa, poi non ce l'ha fatta, meno 0,35%, ma a parte il Banco Popolare... Oggi di nuovo in flessione, ma soprattutto Intesa e Azimut. Sì, oggi appunto le banche hanno registrato un andamento volatile, poi sul finale, come hai già sottolineato tu, hanno un po' tutto imboccato la strada del ribasso, fatto eccezione del Banco Popolare più 0,4%, anche se in verità in questo caso non ci sono motivazioni o quantomeno motivazioni, diciamo, di notizie o speculative, ma piuttosto motivazioni di natura tecnica. Come hai detto tu, poi nella prima parte della seduta c'era stata attenzione su UBI, che aveva provato a rialzare la testa. Ieri ricordiamo che l'istituto ha annunciato i dati del primo trimestre, le linee guida del piano industriale, ma poi hanno prevalso gli ordini in vendita e così anche i titoli sono andati giù. Azimut aveva fatto bene la scorsa settimana, oggi meno 3-4%, del resto le società di gestione, si sa, quando il mercato va male tendono a soffrire spesso più del mercato. Ancora tra i titoli, oltre a Generali, che appunto oggi tutto sommato è andata bene, più 0,13% in un mercato in flessione, c'è stato tra i titoli minori un interesse anche abbastanza forte per il settore del lusso. Sì, oggi sì, semmai su Generali va notato, sì, che... Hai ragione. Sull'onda, vabbè, della trimestrale della scorsa settimana, ma soprattutto della notizia che la banca russa VTB abbia allo studio probabilmente un ingresso nel capitale. In verità per ora non è stato confermato, se non che ci sono delle trattative in corso, ma per siglare eventualmente un memorandum of understanding per una collaborazione nel settore assicurativo. D'altra parte, appunto, il presidente di VTB, parlando nei giorni scorsi con l'agenzia Reuters, aveva fatto intendere che c'è proprio allo studio anche l'eventualità di un ingresso nell'azionariato delle Generali. E ricordiamo anche che Generali invece ha una quota di circa l'1% nel capitale di questa banca russa. Insomma, su queste ipotesi il titolo oggi si è assolutamente mosso in controtendenza. In verità durante della seduta, nel pomeriggio soprattutto, era arrivato a guadagnare più punti, poi ha chiuso con questo progresso, sì, dello 0,13%. Traffico e poi gli altri titoli. 349-238-6666 mi fanno sapere dalla regia che probabilmente avremo il sindaco di questo paese di Pisa, scusate se alterno borsa con temi di attualità, ma questa è la cifra del programma, in cui l'IKEA ha rinunciato dopo 6 anni a realizzare uno stabilimento. Vedremo, ci divertiremo. Traffico intanto. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, concludiamo l'approfondimento di Borsa. Eleonora, con Fiat, brutti oggi i dati delle matricolazioni in Europa, soprattutto per Fiat. Sì, infatti Fiat sin dalle prime battute di questa mattina ha pagato il fatto che le immatricolazioni in Europa per il gruppo sono andate peggio. Se il mercato ha perso il 3,8% di vendite di auto, il gruppo Fiat ne ha registrato una flessione del 7,8% e tra l'altro sono mesi e mesi che Fiat fa sempre peggio, notevolmente peggio del mercato, e quindi questo desta ovviamente preoccupazioni. Il calo così in borsa delle azioni Fiat è stato pari al 2,76% e soprattutto i titoli hanno violato di nuovo al ribasso l'importante soglia dei 7 euro e si sono portati a 6,88 euro. Allora, c'è un ascoltatore che non lesina gli insulti, no, mi piace la, la battuta, cioè, ma insomma i tuoi genitori quel giorno non potevano andare al cinema, così tu non saresti esistito, lo so, che volete farci? Non ho capito quali siano gli ordini di scuderia che ricevo, insomma questo fa arrabbiare chi ha una visione del libero mercato che ricorda un po' più quella di Benigni e Troisi sul Fiorino, a mio avviso. Concorrenza, concorrenza, su. Inutile lamentarsi tanto, se no chiudiamo le barriere, adesso lo vedremo, e non facciamo arrivare nessuno, ci teniamo i piccoli esercizi commerciali, però poi non voglio sentire storie sui costi, i servizi, lo sfruttamento di rendita da posizione, la concorrenza che manca, i clienti italiani che devono pagare di più i servizi rispetto ad altri, insomma paghiamo di più i servizi che non sono in concorrenza. Questo è chiaro. Un'ultima battuta invece, Leonora Micheli su RDB, che perde anche oggi un 11,5%. Sì, ecco. Oggi appunto ha perso l'11,5%, d'altra parte non ci sono motivazioni particolari, semmai per concludere quello che avevi detto precedentemente, oggi sono andati bene diversi titoli del lusso, AEF ha fatto più 10,3%, si era mossa al rialzo nel durante della seduta anche Damiani, ovviamente si scommette sul riassetto nel settore, nel comparto del lusso, c'è anche la possibilità che Damiani, la cui famiglia detiene una quota del 18% in Pomellato, possa vendere a qualche gruppo estero tale quota. Questo non impatterebbe sui conti di Damiani, visto che è in mano alla famiglia Damiani e non alla società. D'altra parte tutto fa riflettere su evidentemente un riassetto nell'intero settore del lusso. Grazie, grazie, Leonora Micheli, Radio Cori, Sole 24 Ore, 349-238-6666 per i vostri sms. Prima di passare nella seconda ora con i sindaci uscente e entrante del luogo dove l'IKEA non riesce a costruire uno stabilimento, vorrei chiudere questa prima ora con una buona notizia, una notizia che arriva proprio dall'agricoltura. ...250.000 posti in 10 anni... questo che potrebbe creare l'agricoltura... a 250.000 posti in più... il dato emerso dall'Assemblea dei Giovani della Coldiretti... 2.000 giovani imprenditori dell'agricoltura sotto i 30 anni... e praticamente sono 49.000 giovani imprenditori... un numero tra i più alti in Europa... che producono un reddito in Italia del 40% superiore a quello medio del settore... in agricoltura... Solo il 3% delle imprese però è condotto da giovani con meno di 35 anni. Sentiamo il delegato nazionale dei giovani della Coldiretti, Vittorio San Giorgio, al microfono della nostra Alessandra Schepisi. Cresce l'occupazione nelle campagne e noi è con grande piacere che riusciamo a dire che oggi diamo un contributo al nostro paese dove si genereranno nei prossimi 10 anni 250.000 posti, e lo facciamo in un momento di crisi assoluto, e il settore che determina tutto questo è l'agricoltura, un settore che nell'immaginario collettivo è visto come retro, un settore del quale molti dicono che è arretrato, invece stiamo dimostrando con un'assemblea dove ci sono oltre 2.000 idee, 2.000 sogni, 2.000 giovani che dicono a questo paese: comincia a credere di più nei tuoi giovani e forse riuscirai a uscire fuori da questa stagione di declino che sta diventando, sembra come dire, ormai costante. Però quali sono le difficoltà nel poter aprire un'impresa agricola? Ci sono ancora tante difficoltà? Noi oggi stiamo a denunciare innanzitutto le difficoltà. Le difficoltà sono quelle che negli ultimi anni abbiamo fatto le politiche per i giovani senza coinvolgere i giovani. Abbiamo speso oltre 1 miliardo di euro di risorse comunitarie, come dire, cercando di dare un contentino a quella che poteva essere l'idea di un ricambio generazionale, che ha prodotto un 3,5%, cioè ovvero il dato che avremmo ottenuto in maniera fisiologica anche senza investire un euro. Perché? Perché purtroppo queste politiche sono state fatte senza chiedere ai giovani che cosa volessero realmente. Cosa chiedete quindi al governo? Chiediamo innanzitutto di lasciarci fare, perché non si può parlare di libertà d'impresa e poi un giovane per aprire un'impresa agricola ci mette 2 anni e mezzo nel nostro paese. Non si può chiedere ad un giovane di essere l'innovazione, facciamo gli slogan elettorali, i giovani sono il futuro, e poi negli anni in cui dobbiamo parlare di giovani, i giovani non ne devono parlare perché loro non hanno esperienza per poter parlare di politiche. Allora, se le politiche sono per i giovani, cominciamo a parlare di giovani, per i giovani. Bravo, bravo, bravo. 2 anni e mezzo per aprire un'impresa agricola e poi sempre questi giovani che vengono tacciati. Stai zitto tu che sei giovane. Allora, uno parla o non parla. Dopo il GR invece parliamo dell'IKEA e di chi si oppone all'insediamento. Ma attenzione, perché ci fosse stata un'opposizione ideologica, l'avrei capita. Qui è 6 anni di attesa per avere una risposta, anche l'IKEA se ne va. Secondo me è assurdo. Alcuni di voi obiettano, anche le assicurazioni sono in concorrenza eppure continuano a costare. Avete ragione. Faccio notare che la Corte di Cassazione e l'Antitrust hanno multato ripetutamente le compagnie assicurative proprio per con l'accusa di cartello. Cioè non è che se ci sono esempi non virtuosi bisogna usare quegli esempi non virtuosi per dire vedete che non funziona. È come giudicare la qualità dell'insegnamento dall'ultimo della classe. Abbiate pazienza. Comunque, GR, poi parliamo anche di questo comune in provincia di Pisa e poi vediamo se riusciamo a ragionare su che cosa è mancato in questa campagna elettorale quanto a merito e a gestione delle metropoli. 349-238-6666 per gli sms. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora cerchiamo di far star dentro tutto, sia la vicenda dell'IKEA in provincia di Pisa, a Migliarino, nel comune di Vecchiano, e anche i consigli bipartisan che vogliamo fornire in primo luogo al sindaco Moratti e allo sfidante Pisapia su quello che è mancato nel programma di governo dal punto di vista di come si, diciamo, governa l'urbanizzazione dell'economia, mettiamola così, poi capiremo. Partiamo con Pisa però. Molti messaggi al 349-238-6666. Insomma, la vicenda è questa. L'IKEA vuole aprire un centro IKEA a Migliarino, nel territorio del comune di Vecchiano. Già dal 2006 presenta il progetto. Si tratterebbe di 400.000 metri quadri in un terreno a momento agricolo. Insorgono gli ambientalisti e anche il WWF. Secondo anche il comitato che sorge, questo creerebbe un problema enorme sul traffico, 20.000 auto in media, 30.000 nei giorni di punta. L'IKEA risponde che, essendoci un bacino di utenza di 1.200.000 persone da Spezia a Grosseto e dalla costa fino a Montecatini, ha progettato un raccordo diretto con lo svincolo autostradale, una bretella per aggirare Migliarino. Investimenti forti da parte dell'IKEA, 70 milioni di euro con 350 posti di lavoro. Oggi l'IKEA annuncia che se ne va dopo 6 anni quasi, è stufa di aspettare. Saluto e ringrazio il sindaco uscente di Vecchiano, Rodolfo Pardini del PD. Buonasera sindaco. Buonasera. E il sindaco neoeletto sempre del PD Giancarlo Lunardi, buonasera anche a lei. Buonasera, buonasera. Pardini, la domanda è molto semplice, non è sapere perché o no volete l'IKEA, uno può essere anche libero di dire no grazie, ma perché avete fatto aspettare l'IKEA quasi 6 anni? No, non abbiamo fatto aspettare l'IKEA quasi 6 anni, noi gli abbiamo risposto esattamente con una delibera del Consiglio Comunale del 15 marzo 2007, in cui dicevamo che l'area che loro hanno individuato prima di poter essere utilizzata c'era bisogno di fare la variante Aurelia. Questa è stata la risposta che gli abbiamo dato e su questo noi abbiamo sempre ribattuto puntualmente. Quindi il problema è che oltretutto questo non è IKEA, perché fosse solo IKEA poteva essere gestita forse in modo anche più tranquillo. Qui c'è accanto un parco commerciale che è 2 volte IKEA da questo punto di vista. Anche loro anche su questo non hanno mai voluto discutere opportunità di ridimensionamento. Quindi la risposta c'è stata subito in tempo reale che quel tipo di intervento, così come era proposto, non poteva andare avanti senza la variante Aurelia. Ma quando la variante Aurelia vuol dire che da noi la statale Aurelia è ancora di competenza del Ministero delle Infrastrutture, vuol dire discutere con provincia, regione e ministero. Noi abbiamo aperto questo tipo di discussione, tant'è che abbiamo fatto anche un tavolo a livello regionale, però non è così semplice e banale. Mi scusi, domanda, sì. Però lei non lo vive un po' come uno schiaffo il fatto che l'IKEA molli un investimento da 70 milioni di euro e 350 posti di lavoro? Anche perché ci scrivono al 349-238-6666 alcuni ascoltatori che abitano nella zona e dicono che a Vecchiano insomma manca tutto, adesso sarà qualcuno critico, impianti sportivi e quant'altro, e la zona di Migliarino è piena di prostitute. Insomma, stiamo parlando di una zona molto sensibile dal punto di vista ambientale o di una zona che di cui non vi fate niente, mi faccio capire. Dunque, no, quella è una zona limitrofa al centro abitato, tanto per cominciare, che si sviluppa lungo la statale Aurelia e c'è bisogno di fare l'infrastruttura, che non è vero che IKEA faceva tutta l'infrastruttura, ne faceva una parte minima esclusivamente finalizzata all'ingresso e all'uscita del parco commerciale. Questo è il punto, un'altra delle questioni che è sempre stato detto. Oltretutto la zona da loro individuata è chiusa tra un'autostrada, che è la Genova-Rosignano, e la ferrovia. Quindi se non si fa prima l'infrastruttura, prima si fa il centro commerciale, poi finisce nel suo posto per farci passare le strade. Ecco, ma scusi, questo vale anche per le COP? Perché, insomma... Per noi vale per tutti. Quindi non è un problema. Ma è l'obiezione di chi dice, perché c'è anche su Facebook, tra l'altro anche Focus Economia su Facebook, lo ricordo ogni tanto, no, questa è una cosa, un'autopromozione becera, ma chiusa l'autopromozione, su Facebook c'è un gruppo Ikea Pisa, sì grazie. Allora, l'idea è che in realtà voi foste contrari all'Ikea to cure, mi può confermare che non è così? Assolutamente no, non l'abbiamo mai detto. Se avessimo scelto di essere contrari all'Ikea Tukur l'avremmo detto nel 2007, senza nessun tipo di problema, come l'abbiamo fatto rispetto alle attività di escavazione di pietra. Quindi non abbiamo problemi, noi quando decidiamo di dire una cosa la diciamo chiaramente. È talmente falso che noi abbiamo sempre mantenuto un ragionamento aperto, addirittura rispetto all'insediamento di solo Ikea, se voleva venire subito, gli abbiamo proposto un'area che dista da quella individuata da loro 200 metri. Quindi è all'interno però della zona industriale, che non è... Pardini, lei lo sa che c'è chi Maligni chiaramente diceva che lei era contrario perché aveva paura di perdere voti? Assolutamente, assolutamente, non è mai stato così. No. Chiedo al neo sindaco Giancarlo Lunardi, lei è sulla stessa linea di chi l'ha preceduta e quindi l'Ikea se ne va e voi la salutate, oppure cercherete di riprendere l'operazione per i capelli? No, la linea è... Sono sulla stessa linea, ma la linea è andata avanti, nel senso che il Presidente della Giunta regionale ha un paio di mesi fa aperto un tavolo regionale chiamando a questo i comuni dell'area pisana, quindi anche noi come comune di Vecchiano e di Ikea, e noi ci aspettavamo subito dopo le elezioni di riprendere questa trattativa, e invece la scelta è sembrata diversa. Noi pensiamo che non sia la scelta definitiva, poi vedremo se di chi la confermerà. E comunque sia, il Presidente della Giunta regionale stamani mattina ha detto che convocherà l'Ikea e gli enti a più presto. Quindi immaginate che possa essere una riapertura della trattativa alla fine? Io credo di sì. Ma lei ci tiene, fermo restando tutte le logiche infrastrutturali? Noi abbiamo sostenuto con le modalità da contrattare, le dimensioni giuste, perché poi si tratta anche di un giusto dimensionamento, non siamo contrari, abbiamo detto ai cittadini, ci hanno dato il 52% dei voti, noi non siamo andati in campagna elettorale a dire no a Ikea, e abbiamo detto che le pensavamo e c'è stato un voto, e infatti per noi è stato un fulmine a ciel sereno, perché sapevamo che il Presidente, che ha chiuso la mia campagna elettorale poche sere fa, e in quell'occasione ci ha detto che saremmo andati avanti con questa trattativa. No, io lo dico anche agli ascoltatori, non ho particolari interessi con l'Ikea, ho comprato nella mia vita qualche mobile all'Ikea, soprattutto quando ero più giovane, per carità. Il punto è cosa si fa sugli insediamenti nel territorio. A chi obietta che nelle zone in cui c'è l'Ikea le tangenziali sono intasate, gli do ragione, ma questo vale per tutti. Allora eliminiamo anche gli outlet, i grandi centri commerciali, cioè se ogni volta il punto è che poi il traffico lì si intasa, ho capito, si intasa anche il sabato e la domenica quando c'è... nei centri storici quando c'è lo shopping, non mi sembra un gran punto. Io intanto in bocca al lupo a Giancarlo Lunardi, perché appunto è stato eletto ieri, ringrazio tutti e due, l'ex sindaco Rodolfo Pardini e il neo sindaco Giancarlo Lunardi. Fateci sapere, vediamo se si riapre la trattativa. A me sembra che comunque perdere 70 milioni di euro e 350 posti di lavoro sul territorio sia un peccato. Vi terremo aggiornati, grazie a ambedue. Grazie. Sì, ragiona un ascoltatore che dice come un fulmine a ciel sereno dopo 6 anni. Vabbè, questo è, ci sono rimasti, lo si capiva palesemente male dalla scelta dell'Ikea. Vediamo se le cose si riapriranno. A noi interessa capire anche cosa succede sul territorio, e dopo il traffico vedremo di dare un'informazione gratuita appunto alla Moratti e a Pisa Pia su come e di cosa si dovrebbe parlare in una campagna elettorale per quello che riguarda l'economia. Ci mancherebbe. Non ci permettiamo di parlare di politica. 349-238-6666 per gli sms, traffico. Ultima parte di Focus Economia con Sebastiano Barisoni. Devo dire che molti ascoltatori della zona di Vecchiano ci scrivono che la zona dove voleva fare lo stabilimento l'Ikea è una zona del tutto inutile,

Quello che è mancato è l'idea di visione che deve avere un sindaco di una città metropolitana, non solo la gestione appunto delle buche, dei semafori, della zona a traffico limitato. Sull'Expo non tocco il tema perché ho avuto uno scontro con la Moratti, non ne voglio parlare. Su questo sappiamo tutti il tempo perso, chiuderei e stenderei un velo pietoso. Lei mi dia gratis la consulenza a Pisapia e alla Moratti, noi siamo assolutamente bipartisan. Che cosa gli indicherebbe, gli direbbe di fare per le prossime due settimane, visto che si va al ballottaggio? Che cosa metterà al centro? Sicuramente non i magistrati paragonanti alle Brigate Rosse, ma... Esattamente le cose che abbiamo parlato, il programma in base al quale loro faranno diventare, rimanere Milano nelle 25 città più, a più ricchezza, più sviluppo nel mondo attraverso questi programmi che la trasformino in una città post-industriale, e saranno programmi di sviluppo di infrastrutture per le quali, guardi, molti di questi programmi vanno oltre Milano, perché per esempio i trasporti a Milano funzionano abbastanza bene, ma quello che sono terribili sono i trasporti locali. Una megalopoli deve avere i trasporti locali che collegano con l'Interland Lombardo, che funziona. Non dipendono totalmente dal sindaco, ma il sindaco ha un ruolo chiave in questo. Le do un esempio: la scuola. Milano ha tra le migliori scuole d'Italia, la scuola dipende dal ministero, però è una grande opportunità che ha il sindaco di fare leva su questo per trasformare la scuola e farla diventare un'ottima scuola. La giustizia civile non dipende dal sindaco, ma senza una giustizia civile veloce, e Milano è tutt'altro che veloce, non potremo mai creare l'opportunità. Quindi il sindaco deve anche orchestrare tutti questi sistemi che, di merito e di regole, che consentono al mercato, cioè, di svilupparsi e creare posti di lavoro. Cioè lei dice programma e visione. Visione e programma. Visione prima e programma. Prima ci vuole una visione, prima... di dire che tipo di città vogliamo essere fra 20 anni. L'altra cosa pazzesca è che se uno va in Cina e va a parlare con questi sindaci, le fanno vedere dei layout di programmi al 2025. Cioè una città non si trasforma in un anno. I nostri politici hanno purtroppo una visione troppo a breve termine. Una visione sondaggistica, diciamo. Sondaggista. È molto importante che ci sia una visione a 10 anni, a 15 anni di cosa vuole essere la città. A questa visione deve essere allineata i cittadini, e soprattutto deve esserci un team di altissima qualità che la anche porti gli uomini, avanti. Certo. Allora, visione e programmi, sono d'accordissimo con Roger Bravanel. Non si gestisce una metropoli, con massimo rispetto per i comuni più piccoli, parlando solo di buche, semafori e zona a traffico limitato. L'Expo, lo sapete cosa ne pensiamo, è stata fino adesso un'occasione persa per la visione. Si è parlato molto di chi doveva essere il presidente, di come comprare questi terreni, di cosa fare dell'Expo dopo Milano, ancora non sappiamo nulla. Visione, programmi, grazie a Roger Bravanel. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente. Cerved Group, il punto di riferimento per un business sicuro e competitivo. Vi ha presentato Focus Economia.